In questi tempi complicati abbiamo pensato di usare la nostra voce per parlare di cambiamenti che attraversano le città. La metropoli della rendita, del greenwashing, del tecnocapitalismo sembra un Moloch in grado di regolare le nostre vite fisiche e penetrare il nostro immaginario. A questo punto ci tocca ragionare partendo da una domanda, se possibile radicale. Che cosa significa affermare il diritto alla città oggi? La nostra indagine parte da Milano, il luogo in cui viviamo, e si espande al resto dell'universo, non perché Milano sia il centro dell'universo, ma perché ogni modello è replicabile in scala e ogni situazione particolare ne contiene una più grande, che ci coinvolge tutti. Questo podcast si chiama Fuori Fase. Le musiche sono di Le Gros Ballon e lo produce il collettivo politico Off Topic Lab. Questa puntata parla di diritto all'abitare e lo fa con Alice Boni, architetto, urbanista e ricercatrice. Ermano Ronda, segretario generale del SICET, sindacato inquilini di Milano, e Stefano Portelli, ricercatore affiliato alla Università di Leicester. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di come, nonostante la crisi pandemica, il mercato immobiliare a Milano abbia mantenuto gli stessi valori pre-crisi. A fronte di un aumento di disponibilità di oltre il 200% di case in affitto in città, i prezzi, che secondo la banale legge della domanda e dell'offerta avrebbero dovuto scendere, sono rimasti quasi invariati. A questo strano andamento del mercato si sommano altri fattori, correlati ma ancora poco indagati. Il primo è la fuoriuscita di abitanti dalla città, a causa della pandemia, della chiusura delle università, dello smart working. Il secondo è il drammatico aumento delle persone in emergenza abitativa. Le ragioni di questa uscita dalla città mi pare comunque che siano legate ad alcune questioni, che sono sia di natura economica e quindi la perdita o la diminuzione considerevole di lavoro in situazioni soprattutto di precarietà lavorativa, però ci sono secondo me ragioni anche di tipo ambientali, l'insostenibilità di vivere a Milano soprattutto durante i periodi di chiusura. Molto spesso si vive in abitazioni piccole e nella città comunque mancano spazi verdi, aree naturali, e aggiungerei anche questioni di natura sociale e culturale, perché tolte alcune opportunità di aggregazione, incontro e fruizione culturale che durante il lockdown sono state ridotte quasi allo zero, la città diventa poco attraente. Ritengo che stiamo parlando di studenti, lavoratori precari delle scuole, dei servizi, di famiglie con figli, per la maggior parte credo immigrati da altre città o da altre regioni. Poi però ci sono anche i forzati della città, coloro che a causa della crisi economica non sono più in grado di sostenere i prezzi degli affitti o dei mutui e che sono però costretti a rimanere nella città. Tra questi ci sono le persone in emergenza abitativa, che sono diventate morose, che sono sotto sfratto, e sono persone che si aggiungono alle numerose persone che già prima della crisi vivevano in una condizione di emergenza abitativa. Milano nella fase pre-Covid si è raccontata, soprattutto da parte del suo sindaco, come una città ricca, con un PIL molto alto, attrattiva, ma sicuramente con la crisi sanitaria le cose hanno dimostrato, e queste lo erano già per noi molto evidenti, una situazione ben diversa. Nel corso del 2020 noi abbiamo fatto una ricerca con partecipazione con la facoltà di Ferrara, di sociologia di Ferrara, aprendo appunto un'intervista su un campione di 400 circa nuclei familiari che abitano prevalentemente nelle case private. Quello che è emerso è che oltre l'88% delle famiglie intervistate, sia cittadini italiani che cittadini stranieri, che hanno redditi comunque poco più, poco meno, insomma di 1000 euro netti al mese, oltre l'88% o non riesce più a pagare l'affitto o ha moltissime difficoltà a pagare l'affitto. Quello che emerge da questa ricerca è che comunque che la crisi, diciamo, sanitaria ha ulteriormente peggiorato una condizione di emergenza abitativa che già si trascina da molto, molto tempo anche a Milano. L'aumento delle persone in emergenza abitativa, in questa fase così acuta, è un fenomeno recente ma con radici profonde, che possono essere fatte risalire alla fine degli anni 90, quando è cominciata la liberalizzazione del mercato degli affitti. Tutte le misure che sono state adottate negli anni successivi, come il Fondo Sostegno Locazioni, che doveva intervenire nelle situazioni in cui il mercato degli affitti diventava insostenibile per le famiglie, si sono dimostrati inadeguati a far fronte a questa domanda di sostegno sempre crescente. Un altro strumento che il pubblico ha storicamente usato per risolvere l'emergenza abitativa è la creazione di nuovi alloggi a prezzi calmierati, attraverso convenzioni stipulate con costruttori privati e realizzati o in regime di edilizia pubblica, le cosiddette case popolari, o in regime di edilizia convenzionata. Ma entrambi gli strumenti, per ragioni diverse, si sono dimostrati inadeguati. Esiste un problema strutturale nel nostro paese, ma anche nella nostra città, in cui l'offerta abitativa pubblica, quella, diciamo, le cosiddette case popolari, che sono regolate con un canone sociale in rapporto al reddito, sono sempre state molto modeste, l'offerta è sempre stata molto modesta. A livello nazionale siamo sull'ordine un po' meno del 4% sullo stock d'uso abitativo. A Milano siamo attorno all'8-9%, con un parco alloggi in città, comune di Milano, quindi patrimonio comunale e patrimonio ALER della regione Lombardia, pari a 61.600 alloggi a canone sociale. Siamo sull'ordine di 130-140.000 persone che usufruiscono, perché hanno partecipato a un bando di concorso negli anni precedenti o perché recentemente hanno partecipato ai nuovi bandi definiti attraverso la legge regionale del 2016, hanno potuto beneficiare di un alloggio pubblico. Sì, è oggettivamente l'unica garanzia che ha una famiglia con redditi modesti di poter, diciamo, vivere dignitosamente, ma in virtù appunto di uno strumento che la Regione Lombardia ha messo in atto con la nuova legge regionale, alla fine si assegnano poco più di 500 case all'anno su una platea di domande che viaggia sempre attorno ai 15.000 e oltre che chiedono un alloggio popolare. Fra la domanda abitativa di appartamenti in edilizia pubblica e l'offerta messa a disposizione dal comune e da ALER, c'è quindi una distanza abissale, destinata a crescere perché la creazione di nuove case popolari in questi anni è stata praticamente sostituita dall'edilizia convenzionata, un tipo di convenzione fra pubblico e privato che sembra rispondere più ai bisogni dei costruttori che a quelli delle persone in emergenza abitativa. Innanzitutto di cosa stiamo parlando? L'edilizia convenzionata può essere definita come un comparto di offerta residenziale a prezzi calmierati. Può riguardare la vendita, l'affitto compatto di futura vendita e l'affitto permanente. La possibilità di offrire prezzi calmierati si basa sulla possibilità che il privato abbia degli sgravi. Tra questi i più importanti sono l'abbattimento del costo dell'aria oppure dei costi di costruzione. Nella convenzione tra il privato e il comune, poiché ci sono in gioco delle risorse pubbliche, il comune definisce il prezzo di costruzione e di vendita al metro quadro e indica le categorie di soggetti a cui vorrebbe che venisse destinata l'offerta di casa. Il privato si fa carico della realizzazione ed eventualmente della gestione dell'intervento, ma anche dell'identificazione dei soggetti destinatari. Fatta questa premessa, arrivo un po' più nel merito di come ha funzionato il dispositivo. Nell'utilizzo di questo dispositivo dell'edilizia convenzionata sono state messe in atto dal dopoguerra ad oggi una serie di distorsioni, ne cito alcune. La prevalenza di edilizia convenzionata in vendita rispetto all'affitto, che è rimasta una componente molto molto residuale, E questo perché al costruttore risulta molto più vantaggiosa la vendita rispetto all'affitto, che poi implica anche una gestione degli immobili, anche se i costruttori dicono che riescono a piazzare meglio sul mercato un appartamento in vendita rispetto ad uno in affitto. Ma la verità, a mio avviso, è che a loro risulta più vantaggioso realizzare qualcosa che poi possono vendere piuttosto che qualcosa che poi devono gestire, tra l'altro a prezzi calmierati e controllati. Una seconda distorsione è stata l'applicazione nel caso dell'affitto di canoni non significativamente più bassi rispetto a quelli di mercato. E un'altra, la perifericità e la poca appetibilità delle zone in cui è stata realizzata la maggior parte degli interventi rispetto ad alcune aree ritenute centrali dove è sempre prevalsa la logica del massimo profitto. E infine le speculazioni che sono state operate nell'uso di questi immobili, venduti dopo poco l'acquisto a prezzi praticamente di mercato con delle quote in nero. Ogni comune decide in autonomia quali sono i limiti di reddito per accedere all'edilizia convenzionata. Può essere 50.000 euro l'anno, ma addirittura arrivare fino a 90.000 euro l'anno. Queste cifre ci fanno capire che oggi l'edilizia convenzionata si rivolge soprattutto al ceto medio, con una certa disponibilità e stabilità economica, e non certo alle persone in reale emergenza abitativa. Eppure in questi anni è stato lo strumento di intervento sociale in assoluto più utilizzato nel settore immobiliare. In tutte le convenzioni degli ultimi 10 anni che il Comune ha stipulato con gli operatori privati, sono stati realizzati sostanzialmente 207 alloggi in affitto per l'edilizia residenziale pubblica, pari al 3,29% rispetto al totale degli alloggi realizzati sempre in regime di convenzionata. La parte, Pochissimo. come al solito, più grossa è stata fatta per la convenzionata in vendita, quindi si privilegia costantemente la vendita anche per la convenzionata, si privilegia sempre la vendita per l'edilizia libera a dei livelli di compravendita inaccessibile per la stragrande maggioranza della popolazione milanese e per invece le case popolari una irrisoria manciata di abitazioni. L'edilizia convenzionata, quindi per come funziona attualmente, a mio avviso non è in grado nel breve periodo di rispondere all'emergenza abitativa. Lo potrebbe essere, forse, nel lungo periodo, se venisse pensato un intervento strutturale e radicale volto proprio a modificare gli assetti di mercato, mettendo a disposizione un'offerta consistente di alloggi in affitto calmierato in grado di sottrarre inquilini al mercato. In questo modo il mercato forse si vedrebbe costretto a rivedere un po' insomma, i propri parametri. Passando agli strumenti, credo che la priorità nell'immediato sia quella di tutelare tutti i soggetti che hanno minore potere contrattuale e ciò è possibile solo mettendo in atto e in campo una pluralità di strumenti. Ci devono essere strumenti di sostegno al reddito, la proroga del blocco degli sfratti, la messa a disposizione di alloggi alternativi sicuri a canone sostenibili, e quando parlo di sostenibilità intendo a canoni che sono commisurati al reddito disponibile, il potenziamento del fondo di sostegno affitto, anche se lo considero uno strumento che asseconda e incentiva invece che regolare la tendenza del mercato ad applicare canoni di affitto volti alla massimizzazione del profitto. E credo quindi che sia uno strumento che in qualche modo debba o andare ad esaurirsi o essere applicato solo, per esempio, nelle situazioni di edilizia convenzionata dove i prezzi delle abitazioni sono in qualche modo controllati. Nel lungo periodo penso infatti che il bene casa, inteso come bene di prima necessità, debba essere progressivamente sottratto a questo settore, al settore delle costruzioni immobiliari. E in altre parole, la costruzione di una soluzione abitativa non dovrebbe essere più lasciata in mano alla capacità di autoregolazione del mercato, ma dovrebbe essere rimessa nelle mani degli abitanti. Una delle iniziative spontanee, di carattere popolare, che ha fatto più discutere in questo periodo e che si rivolge a tutte quelle persone che a causa della crisi non riescono più a pagare l'affitto, il mutuo e che sono minacciate dal sempre più feroce processo di speculazione immobiliare, è il Rent Strike, o sciopero degli affitti, una mobilitazione globale che si è celebrata anche in Italia lo scorso 27 marzo. Ce ne parla Stefano Portelli, ricercatore universitario. L'idea dello sciopero degli affitti è stata: chiamiamo sciopero il problema di tutte le persone che non possono pagare per una serie di questioni che vanno molto al di là della loro responsabilità. Chiaramente la chiamata allo sciopero è come qualunque sciopero, no? Si sciopera per far riammettere in fabbrica le persone che sono state licenziate ingiustamente, e aderisce allo sciopero anche chi non è stato licenziato, quindi aderisce allo sciopero anche chi non sta perdendo la casa. Quindi l'idea di uno sciopero degli affitti è la proposta che, per fermare il processo di finanziarizzazione, di espulsione e di accaparramento che produce svuotamento dei quartieri e delle situazioni intollerabili dal punto di vista sociale, si dovrebbe smettere di pagare gli affitti e i mutui in solidarietà con le persone che già non possono pagarlo. Ora, tutto questo porta a una serie di contraddizioni, no? Che è quella dei piccoli proprietari, naturalmente, che si trovano a non ricevere l'affitto e che viene cavalcata dalla grande proprietà. Confedilizia ha appena fatto, mi pare l'altro ieri, una maratona contro il blocco degli sfratti, ergendosi a paladino dei piccoli proprietari. Chiunque abbia due dita di fronte sa benissimo che la piccola proprietà è molto più vicina ai suoi inquilini che alle banche e alla corporazione come Blackstone e Cerberus, che dettano le leggi del mercato immobiliare, quindi dei loro mutui e delle loro tasse, no? Ci sono state una serie di iniziative decentralizzate in tutta Italia, che sono andate dal palazzo della Bolognina, che collettivamente ha smesso di pagare l'affitto, politicizzando l'impossibilità da parte di alcuni di far fronte a questi affitti, a situazioni più specifiche, individuali, legate a un certo tipo di settori sociali, come la popolazione studentesca, ad esempio, e poi naturalmente c'è il lavoro nei quartieri, no? Per cui qui, per esempio, a Roma ha funzionato soprattutto come struttura di messa in collegamento di collettivi, movimenti e gruppi organizzati che già stavano lavorando sulla casa. Qui c'è un movimento per la casa storico, e questa rete già esistente si sta interfacciando adesso anche con chi subisce lo sfratto perché è in affitto da privati. Naturalmente questa cosa di collegare delle battaglie che fanno capo, diciamo, a dei settori sociali molto diversi è una cosa che beneficia tutti, perché la strategia delle istituzioni è stata sempre quella di dividere i diversi settori sociali, mettere, capito, il proprietario contro l'inquilino contro l'assegnatario delle case popolari, l'assegnatario contro l'occupante, e tutto questo non fa altro che creare un fronte di battaglie, piccole battaglie settoriali, in cui naturalmente la meglio ce l'avrà sempre il monopolio. Questo è un po' il lavoro, è proprio un lavoro di ricucitura dei settori sociali. Questo podcast è una produzione del Laboratorio Politico Off Topic. Per approfondire queste tematiche puoi trovarci sul sito offtopiclab.org oppure seguire il nostro canale Telegram Off Topic Lab. Se poi vuoi conoscerci di persona, tutti martedì sera dalle ore 21 ci trovi allo spazio sociale Piano Terra, in via Federico Confalonieri 3, al quartiere Isola. A presto, ciao!